音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是导盲犬，我不叫不闹不咬人，我是盲人的眼睛，请大家允许我出现在公共场合。当您遇到我时，请不要呼唤，不要拒绝，不要抚摸，不要喂食。 同在蓝天下，共有一个家。包容导盲犬，关爱盲人。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏多尼采蒂的两幕喜剧《爱之甘醇》，是由卡雷拉斯、里夏雷利、努奇等歌唱家的精彩演绎。 Quanto è cara, quanto è bella, ah, quanto è bella, quanto è cara, più la vedo più mi piace, ma in quel cor non son capace, ieri affetto ad inspirar, in quel cor non son capace, ieri affetto ad inspirar, in quel cor non son capace, ieri affetto ad inspirar, ieri affetto. vezzoso, forse le polo alla più bella mia diletta villanella, io ti porgo questi fior, ma di lui più glorioso io di lui felice sono, poi che in premio del mio dono, poi che in premio del mio dono ne riporre quel tuo bel cor. Chiaro in quel visino, io fa breveggiare il tuo petto. Non è cosa sorprendente, son galante e son sargente, non va bella per desista alla mia dolce miero, c'è de Marta Dio guerriero, figlia madre dell'amore, c'è de Marta Dio guerriero, Dio guerriero, figlia madre dell'amore. Yeah, I'm off. Bye.

questo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che posse viate segreti portentosi. Sorprendenti, la mia soccorsa e di Pandora in vaso. Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta? Oh, che cosa? Voglio dire lo stupendo elisir che d'estamore. Sì, capisco, intendo, io ne son distintore. E fiavero? Sì, se ne fa grano consumo, gran consumo in queste età. Fortuna, e ne vendete? Ogni giorno, e con prezzo ne volete? Poco assai, poco due, secondo un zecchino, l'altro qua, e la somma che ci fa. Si può con riguardo al pianino la bottiglia un po' si scuote poi si scura sì, vada che il vapor non se ne vada che il vapor non se ne vada ben, quindi andata no, vicini ben, e la vedi la gente il vino l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire non è tardi a conseguire sul momento a dire il vero necessario un giorno intero quanto tempo sufficiente per cavarmene e fuggire il sapore eccellente eccellente eccellente Bordeaux non è lì obbligato, sobbligato son felice, son contento si vede la bontà benedetto chi ti fa obbligato, non obbligato son felice, son obbligato e visite di te la Giovinotto, ehi, signore, sopra ciò, silenzio, fammi, silenzio. Silenzio, oggi ti spaccia il lavoro, è un affar geloso assai. Sicuramente è un affar geloso assai. Impacciarsene potria un tantin d'autorità. Dunque, silenzio, me ne do la sfederia, e anche a mani mai sarà. Silenzio. amor tale fortunato, un tesoro t'ho donato, tutto sotto femminino, te non posso dire no. Amor tale fortunato, un tesoro t'ho donato, tutto sotto femminino, te non posso dire no. Amato e guido amarola, io verrò per una sola, ne verrà e sia pur bella, né una sola spilla abbatterà. Thank you. Thank you. Che far? Ma che fissia, non mi la giove, ma che si spera. penso di ogni giorno, dove gli amanti abbandonano. Marina, udisti, domani addio, almeno ricordati dell'amor mio. Sì, sì, domani ne udrai la nuova. Tu fossi in te, infin ch'io tengo, apri le mani, varie buffone, ascolti a me, varie buffone, ascolti a me.